vita che gira con passo costante. Se ancora pensi al mondo come ad un gioco o come a una chimera, se la tua vita si ferma in una piccola strada che muore e senti quelli che raccontano storie, e affidarti dovrai, ed affidarti dovrai alla settima onda. Baby.